pantalone tutto contento, inscatolato nella 600, ha caricato valigie e cuscini e va in ferie con moglie e bambini. Appena arriva nell'autostrada, già fa la prima fermata nell'autogrill dei pavesini, porta a fare pipì i bambini. Oh, com'è bello, com'è elegante quest'autososta, questo ristoro. Ci sta il sapone con l'autospruzzo, ti lavi le mani e non paghi alcun prezzo. Ma poi l'uscita è obbligatoria, 300 metri di rotatoria, e per riprendere la macchina in sosta devi guardare la merce esposta. Ci sono cravatte, camicie, mutande, oggetti strani ed attraente, tutto studiato, eccitante, con la scritta perfino invitante: servitevi soli, alla cassa pagate, e pantalone così c'è cascata, non paga niente per la pipì, ma 10.000 ci lascia lì e torna in macchina con pochi quattrini, ma si tiene su con i pavesini. Oh, com'è bello, com'è elegante questa autososta, questo ristoro. Pantalone riparte, ma più di 30 allora non va, perché la colonna nell'autostrada ci sta. Aveva detto alla moglie in partenza: Marietta, con la macchina vedrai, prima di sera saremo a Cosenza. Ma si fa sera che a Reggio Emilia ha voglia ancora d'andare in Sicilia, e mentre guida con gli occhi di triglia s'addormenta l'intera famiglia. In emergenza si ferma un momento e s'accapezza sopra il volante. Quando si sveglia è già mattino, trova la multa sul finestrino, gliela pioppata la polizia perché sostava fuori corsia. Oh, com'è bello, com'è elegante questa autososta, questo ristoro. Mette in moto per ripartire, ma del dolore si sente morire. Ha preso pure il torcicollo e fra 2 giorni gli scade il bollo. Dopo 2 giorni arriva in Calabria, che è tutto sudato, pieno di sgabbia. Sente uno strano rumore al motore, gli bolle l'acqua del radiatore. Allora scende per controllare, svita il tappo, ma il vapore, ciam, gli sputa in un occhio. Allora grida alla faccia del cacchio: queste son ferie del quaquaraquacchio. Oh, com'è bello, com'è elegante questa autososta, questo ristoro. Arriva in Sicilia che già son passati 3 giorni, 2 notti, 6 chili ha perduti, ma in compenso a parente e bambini ha fatto dono dei pavesini. Un po' di giorni al paesello, insieme col padre e con il fratello. Pantalone si fa la sgobbata per zappare la terra lasciata. Aveva detto a Milano in partenza agli amici lasciati: vado in ferie, ritorneremo tutti abbronzati. Ma è ritornato ancora più bianco, senza una lira, è morto stanco. Un occhio bruciato, il cuore scontento, affusi il motore della 600 e per di più alla povera moglie, lungo il ritorno ci han preso le doglie. Ritorna in fabbrica a lavorare e trova il padrone a predicare: uè, bisogna i ritmi aumentare, dopo il riposo veloci si va. Ed una bella sorpresa ha trovato dentro l'uovo che Colombo ha covato. Aumenta benzina, bollo, circolazione e paga, paga, pantalone. Ma gli ha lasciato la libertà di potersi lamentar. Allora grida alla faccia del cacchio: questo governo è un quaquaraquacchio. Ma Pantalone offende il pudore e l'han portato a San Vittore. Ma gli ha lasciato la libertà di potersi lamentar. Ma gli ha lasciato la libertà di potersi lamentar. Ma gli ha lasciato la libertà di potersi lamentare, ma gli ha lasciato la libertà di potersi lamentare, ma gli ha lasciato la libertà di potersi lamentare.